Allora, buonasera, eccoci qui con la seconda trasmissione del ciclo che stiamo facendo come martedì 8 gestito da femministe e lesbiche sugli strumenti e le strategie di difesa e autodifesa delle donne. Abbiamo chiamato questa trasmissione Libere di scegliere, libere dalla violenza degli uomini. È una trasmissione che ci accompagna e ci porta alla manifestazione del 24 novembre, manifestazione di donne per le donne contro la violenza maschile, e abbiamo deciso di parlarne insieme con i collettivi romani che hanno partecipato fortemente alla preparazione di questa manifestazione a livello romano. Ciao! Ciao! Ciao! Siamo qui in tante. Ci sono le compagne in ordine, così come le vedo davanti a me, dell'Assemblea Femminista del 22, le compagne della Mela di Eva, le compagne del gruppo donne della SNIA, le compagne di Amatrix e le compagne di l'una e le altre. Vi ho dette tutte? Sì. In questa trasmissione ci piacerebbe dialogare insieme sul... Da una parte, quali sono stati i percorsi che hanno portato i vari collettivi ad abbracciare questa manifestazione e poi anche come ci stiamo arrivando a questa manifestazione del 24, quindi quali sono le iniziative che stiamo mettendo in piedi in questi giorni. Chi vuole iniziare? Ma qua iniziare non vuole iniziare nessuno, quindi perché iniziamo. Continuiamo, perché non stiamo iniziando niente in realtà, ma continuiamo semplicemente. Sì. Claudia. Mela. Della Mela di Eva. Ciao a tutte. In realtà noi ci siamo incontrate con questa manifestazione, diciamo di più con l'appello, perché già da quando abbiamo ripreso le riunioni a settembre stavamo sempre ragionando e discutendo sulla violenza, cercando di analizzare il fenomeno al di là appunto di tutta la faccenda mediatica che viene fuori anche d'estate, dello stupratore straniero, quello, quell'altro, sapendo perfettamente, perché è un anno pieno che siamo comunque con gli occhi puntati sul problema della violenza contro le donne, che la fanno gli uomini, che è domestica, che è il partner, molto spesso dicono il 67,9% degli stupri è ad opera del partner, quindi dati molto rilevanti e secondo me anche sottostimati poi in realtà, perché sappiamo bene quante non denunciano, quante non dicono, eccetera eccetera. Abbiamo iniziato l'anno scorso facendo una giornata che era il 29 settembre anche con la SNIA e ci siamo rivisti, è tanto che lavoriamo sulla violenza. Quando ci è capitato, perché stanno in tante mail list, di ricevere questo appello che chiamava a fare qualcosa dopo gli ultimi fatti di cronaca che distorcevano ancora il problema della violenza, abbiamo partecipato all'assemblea, ci siamo viste con i gruppi comunque con cui ci vediamo a Roma, abbiamo pensato che forse era il caso di dire qualcosa e di fare qualcosa di grosso quest'anno per il 25 novembre, che ricordiamo la data della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, diciamo istituzionale, però forse quest'anno la giriamo un po' meglio. E poi mi sembra che è una data che però viene dal Sud America, cioè in realtà non è forse proprio una data istituzionale. È stata acchiappata dall'ONU questa data, nel senso che esiste da tanto tempo, il 25 novembre, appunto per le donne latinoamericane, perché è stata la data nel 1960 in cui sono morte, cioè sono state uccise dal dittatore di Santo Domingo tre sorelle che avevano costituito un collettivo che si chiamava Las Mariposas e che appunto facevano politica contro la dittatura e sono state vittime di un attentato appunto da parte della dittatura del dittatore Trujillo di Santo Domingo ed è da tanto tempo appunto che le donne latinoamericane hanno questa data per commemorare la violenza contro le donne. Poi l'ONU ha deciso di, da due anni a questa parte, questa è la seconda volta, da due anni a questa parte, di istituzionalizzarla, tra virgolette, e quindi adesso tutti e tutte parlano del 25 novembre, un po' come se fosse fuoriuscita dal cilindro, nel senso che molto spesso appunto non si sa che invece questa data è anteriore rispetto all'uso che l'ONU ne ha fatto da due anni a questa parte. Vabbè, io sono Emanuela del 22 e vabbè, infatti proprio in relazione a questo diciamo che noi abbiamo cominciato proprio a fare e a pensare, a dare una centralità al discorso della violenza che subiamo come donne e come lesbiche. A partire proprio diciamo in una maniera esplicita proprio dal 25 novembre dell'anno scorso, quando siamo andate alcune di noi sono andate il 25 novembre a Bologna, che era stata organizzata dalla Rete delle Donne di Bologna, una manifestazione cittadina contro la violenza sulle donne, e era stato organizzato uno spezzone separatista. Perché le compagne di Bologna era qualche anno che stavano portando avanti un'attività molto forte contro la violenza, e anche perché una compagna di uno dei collettivi di donne lesbiche di Bologna, non mi ricordo di quale, e aveva subito un tentativo di violenza, era riuscita a reagire, quindi diciamo che questa cosa aveva portato alla possibilità di organizzare dei percorsi più visibili, alla voglia di organizzarli proprio a partire da qualcosa che le aveva toccato in prima persona. E quindi noi siamo andate su sia il 25 novembre e sia poi qualche giorno dopo, il 2 dicembre. Esatto, il 2 dicembre, che è stato organizzato da parte loro una manifestazione di sole donne e lesbiche a Crevalcore, che è questo comune in provincia di Bologna, dove abitava lo stupratore, quello che aveva tentato di stuprare la compagna. Che era di Avellino, quindi perfettamente italiano doc. Sì, esatto, italiano doc. E quindi in quell'occasione loro avevano organizzato questa manifestazione sotto casa dello stupratore, e noi niente, insomma, siamo andate, avevamo organizzato un treno come compagnia di Roma, siamo andate ed è stata una manifestazione per molte di noi, è stata veramente una manifestazione forte, bellissima, in cui cioè, è circolata tra noi un'energia veramente potente, e in qualche modo a partire da questa cosa abbiamo sentito con forza il desiderio di riuscire anche a Roma ad organizzare dei momenti pubblici di denuncia della violenza, ma anche di luoghi pubblici in cui potessimo urlare la nostra rabbia. E infatti poi abbiamo dato vita insieme ad altre compagne al corteo dell'8 marzo, poi magari se lo vuole raccontare pure qualcun'altra, visto che quelle che stanno qui erano comunque nella costruzione del corteo. Vabbè, insomma, la menzione per l'8 marzo, che è stata sulla violenza contro le donne, cioè abbiamo deciso comunque di incentrarla su questa questione qui. È stata una manifestazione separata, era tantissimo che non si faceva a Roma, e l'abbiamo fatta di notte, e abbiamo cercato comunque di mettere l'accento alle forme di violenza, e abbiamo cominciato a parlare esplicitamente appunto della violenza in famiglia, penso che quello sia stato importante che ha reso possibile la manifestazione nazionale che stiamo facendo adesso. Però, un attimo solo, visto che parlavi di Bologna, noi l'abbiamo già detto in agenda, ma lo ripetiamo, per Bologna il 27 novembre ci sarà un processo abbreviato, diciamo che si presuppone che ci sia proprio l'intensa, una sentenza appunto che ha come imputati due studenti stupratori che hanno appunto l'anno scorso violentato e massacrato di botte una ragazza, e le compagne di un corso con forza hanno fatto un presidio proprio davanti al tribunale, dove c'erano poi in questo caso c'è una campagna diffamatoria contro la donna che è stata violentata, che ha dell'abominevole, perché gli amici degli stupratori hanno cercato di organizzare concerti a loro sostegno in Sardegna, per questi due sono sardi, le compagne l'hanno bloccato questo concerto, che credo fosse previsto per maggio, insomma primavera comunque di quest'anno, e le compagne di Bologna appunto, oltre ad essere il 24 novembre a Roma, il 27 novembre saranno sotto al tribunale per manifestare la loro solidarietà e la ragazza per continuare ancora in maniera più forte il percorso sulla violenza con le donne. E allora io volevo riprendere, insomma, partendo dal corteo dell'8 marzo, insomma, mi allineo a quello che ha detto Manuela, che è un corteo veramente bello, veramente importante, perché a mia memoria, ora è vero che io, insomma, non è tantissimo, cioè saranno sì, insomma, ormai sono dinamiche tra compagni così, però non me lo ricordo, cioè non so quando è stato fatto l'ultimo corteo, cioè, forse parliamo di più di 10 anni fa, oramai, no? Sì, io credo che io mi ricordo un corteo separato contro la violenza fatto a Montesacro, credo che fosse una decina d'anni fa. Quindi insomma. E quindi è stato un momento importante, finalmente eravamo in tante, abbiamo ripreso gli spazi pubblici, perché il problema poi era quello, no? Era un po' già che è un po' di tempo che a Roma in qualche modo le compagne si cominciavano a rivedere, si cominciavano a rimettere in relazione, però questa presa forte collettiva dello spazio pubblico non c'era stata. È stato un momento, secondo me, dal punto di vista simbolico veramente importante, insomma, andava fatto. Ora è vero che è stato anche sconcertante un po' vedere le reazioni, no? Poi al centro delle ragazze che intercettavamo, perché effettivamente questa presenza massiccia di donne veramente era quanto assolutamente inusuale, inaspettata, insomma, gli sguardi di meraviglia e di incredulità credo che insomma ci circondavano da più parti. Pensa sabato che viene fuori. E vabbè, io comunque sono Sonia del gruppo Donne di Esnia e allora noi in realtà vabbè, ci siamo costituite come gruppo, oramai sono due anni e diciamo abbiamo attraversato in qualche modo la problematica della violenza, che non è stata proprio sempre al centro della nostra attività politica, però l'ha attraversata spesso perché in qualche modo poi è una problematica che ovviamente ci attraversa tutto attraverso i nostri corpi, è molto in realtà difficile, e noi questa difficoltà l'abbiamo riscontrata anche proprio a livello di riunione, affrontarla poi su di noi, no? Parlarne eccetera, però in tutti diciamo i momenti in cui in qualche modo a livello cittadino si è cercato di fare qualcosa insieme, in realtà ci siamo state, quindi dal appunto il corteo dell'8 marzo, il 25 novembre dell'anno scorso col sit-in a Largo Argentina, sì, e abbiamo fatto il 13 ottobre e una riunione con i consultori della nostra, con tutti i consultori della ASL Roma C, e tra gli interventi c'era anche un'operatrice di un consultorio, mi sembra che era della Casilina, se non ricordo male, che ha parlato anche per esempio dei servizi offerti dal consultorio per la donna che insomma andava lì a chiedere aiuto. Per esempio io personalmente neanche lo sapevo quel consultorio, cioè sapevo vagamente insomma che, però non sapevo che esistessero dei servizi ad hoc per aiutare le donne in difficoltà. Poi nei consultori vabbè magari c'è comunque un assistente sociale, di solito una psicologa, che affrontano la problematica, poi ognuno ovviamente con le proprie interpretazioni, per cui c'è chi è per la linea diciamo dura del tipo la donna, cioè si parla con la donna da sole, si cerca in qualche modo, se il contesto familiare è quello che ha prodotto la violenza, di comunque consigliarle un allontanamento anche di riflessione, così ci sono altre che provengono per altri tipi di insomma di terapie, di strategie, comunque per il momento la nostra finalità era quella di far capire che insomma anche nei consultori c'era anche questo tipo di servizio e la possibilità di ricevere aiuto. E poi diciamo che abbiamo fatto un comunicato insomma in occasione della nostra ultima iniziativa alla SNIA, perché la strumentalizzazione che è avvenuta in occasione della morte di Giovanna Reggiani è stata veramente una cosa vergognosa, per cui questo utilizzare il corpo di una donna morta da un lato per approvare in tempi velocissimi, come credo non si sia mai fatto a livello se non appunto nei momenti di emergenza di ordine pubblico, un pacchetto sicurezza in cui appunto l'equazione è violenza nelle strade uguale immigrati, che è praticamente tutto il contrario di quello che tutte le statistiche ufficiali dicono, anche i dati Istat del 2006 ribadiscono questa cosa, e nonostante questo e a livello mediatico e a livello poi proprio delle politiche che stanno alla base di questo pacchetto sicurezza, quello che poi invece traspare sembra il contrario, no? Cioè sembra che il fenomeno di massa sia la violenza per le strade, e quindi cioè, abbiamo fatto un comunicato su questa cosa, stiamo cominciando anche tra di noi noi a, poi insomma è interessante vedere come appena si affronta questo problema anche tra di noi, quello che viene fuori è che poi tutte noi in un modo o nell'altro in qualche modo siamo state attraversate, magari non a livelli macroscopici, però da forme di violenza più sottili, più pervasive, tutte quante insomma in una forma o nell'altra, e questo viene fuori appena ci si riunisce e se ne parla, insomma. E, per il momento non so, tu volevi aggiungere qualcosa? Ma io vorrei aggiungere una cosa, comunque vorrei specificare che ritrovandoci noi a fare le riunioni in un gruppo, cioè in un centro sociale, quindi anche a contatto con dei compagni, molto spesso ci troviamo nella difficoltà di far intendere che cosa sia la violenza di genere, ovvero cioè, che la violenza sulle donne sia una forma particolare e specifica, molto spesso purtroppo non viene recepito, quindi noi ci siamo trovate più volte nella difficoltà di far capire la nostra posizione proprio all'interno del centro sociale di cui comunque facciamo parte. E su questo infatti volevo aggiungere che quando a maggio dell'anno scorso c'è stata la RAM alla SNIA, cioè l'Assemblea Antifascista, la rete nazionale insomma, e noi abbiamo portato un documento che ma ha suscitato un applauso, ma non so quanto, poi c'erano tutte le facce interdette che ci guardavano, cioè perché noi in questo documento quello che dicevamo praticamente ai compagni era è ora che anche tra di noi si comincia a parlare delle forme che nei nostri luoghi e nelle nostre relazioni sono violenze e sono avvertite come violenza, perché troppo spesso ci sembra appunto che per quanto l'elemento antifascista ovviamente è una cosa che per tutte noi è fondamentale, che è un elemento essenziale della nostra identità, però ci sembra che troppo spesso sotto questa appunto clausola identitaria in qualche modo venga coperta, no? Vengono coperte invece un'altra serie di atteggiamenti che non vengono mai analizzati, perché in qualche modo è come se l'essere antifascista ponga al riparo dall'essere, siccome antifascismo uguale autoritarismo, ponga al riparo dall'essere poi a propria volta autoritari. E questa cosa nel documento l'avevamo esplicitata dicendo soprattutto il problema è saremmo curiosi di sapere quante volte i compagni che stanno qui, per esempio, con i vari amici, con i fratelli che parlano, discutono, oppure si mettono magari a analizzare criticamente un fatto che può essere un fatto di molestia, un fatto di aggressione verbale, no? O quante volte questa cosa viene denunciata, quante volte diventa elemento di un dibattito pubblico? A me risulta mai. Oppure le strategie proprio che esistono nelle assemblee miste, che sono comunque pesanti, sono strategie di egemonia di potere, sono strategie discorsive spesso proprio categoriche, nette, cioè le modalità appunto che noi dicevamo, le modalità interrogative, le modalità comunque colloquiali, anche dare il tempo a chi ha bisogno di parlare, più tempo per parlare, no? Cioè questa cosa qui nell'assemblea mista è molto difficile perché non c'è una riflessione su questo. Le femministe americane negli anni 70 dicevano che quando si parla di donne anche gli amici diventano nemici, no? Per dire insomma quanto sia difficile far attraversare anche il movimento da pratiche politiche differenti rispetto a quelle solite, insomma. Io sono Olivia Diamatrix, dunque ripercorrendo un po' velocemente quello che ci ha portato a questa manifestazione, la prima cosa che mi viene in mente direi è stata la riflessione che nel marzo scorso, ma in realtà già da tempo, abbiamo fatto su una cosa apparentemente molto distante, che è stata la riflessione su questa formula, il reddito per l'autodeterminazione, che noi abbiamo diciamo declinato come riflessione partendo dal presupposto che questo strumento lo pensavamo come uno strumento appunto pratico e simbolico che garantisca a tutte, ma in particolare alle donne, la possibilità di autodeterminarsi, cioè di fare delle scelte, perché pensiamo che diciamo il germe della violenza sia la negazione dell'autodeterminazione, ma quello è anche diciamo il punto di partenza della nostra reazione. Quindi diciamo abbiamo pensato questo reddito come uno strumento anche sul piano dell'immaginario di contrasto alle politiche familiste, alle politiche che vogliono ancorare tra virgolette i diritti all'essere all'interno di un nucleo familiare ma anche di un nucleo di coppia, perché poi cioè, diciamo filtrare la nostra esistenza, le nostre vite attraverso una dualità che poi ci schiaccia un po', una cosa che è difficile da sradicare, e proprio perché la famiglia è diciamo il luogo dove si strutturano le relazioni, dove in qualche modo passano i ruoli, l'eterosessismo, il concepirci come in qualche modo sempre in funzione di qualcun altro, dove passa la rapina del lavoro di cura alle donne, eccetera. Quindi diciamo quello è stato il primo momento. Sull'onda di questo abbiamo partecipato, abbiamo partecipato attivamente alla costruzione del 25 novembre scorso a Roma, che era proprio incentrato sul fatto che la violenza avviene in famiglia, e infatti le casette insanguinate erano state un po' il modo divertente, diciamo tra virgolette, per far passare questo messaggio. E dopo quello direi che è nata la nostra creatura, che è questa supereroa che si chiama Spaccafamiglie, che ci siamo un po' portate dietro tra Family Day, Pride, eccetera, che è appunto una supereroa che si vuole autodeterminare e quindi vuole distruggere la famiglia come primo nucleo di costrizione. E poi naturalmente siamo arrivate al 24, in realtà proprio pochi giorni prima, promuovendo questa assemblea cittadina che poi si è al momento è confluita nell'organizzazione del 24, che nasceva dalla sensazione che fosse necessario per rispondere, cioè per non sentirsi tutti i giorni leggendo i giornali sopraffatte dalla quantità di attacchi, fosse necessario mettere insieme una serie di tematiche. Quindi avevamo pensato che per esempio gli ultimi attacchi a 194 che sono stati di quest'estate, ma anche la questione della sicurezza che appunto ha usato fin da subito lo strumento della, cioè la clava della violenza contro le donne per far passare queste politiche razziste, fasciste, ma che oltre ad essere razziste e fasciste ci riducono anche a un ruolo di vittime che in quanto tali devono stare zitte perché sennò non possono essere difese, tra molte virgolette, e ovviamente la questione della violenza sulle donne, che diciamo il nesso che avevamo trovato tra tutte queste è appunto la negazione dell'autodeterminazione, della soggettività delle donne, della loro capacità di scelta. Cioè se siamo vittime non possiamo scegliere, non possiamo scegliere per i nostri corpi, e quindi ci viene negato, per esempio, cioè viene rimessa in discussione la 194 e quindi diciamo non possiamo in realtà poi più reagire alla violenza che ci viene agita su tutti i fronti. Ecco, questo è un po' un riassuntino. Io sono Elisa di Luna e le Altre. L'Una e le Altre è uno spazio che si trova a Spinaceto, è uno spazio separato che è stato occupato fine anni 80, inizio anni 90 e in cui si pratica dal 95 l'autodifesa, il vendo, l'autodifesa femminista, e quindi chiaramente per noi la manifestazione del 24 è molto importante perché nel vendo facciamo autodifesa a livello tecnico, ma anche su altri fronti, quindi la presa di coscienza di tutte le varie forme di violenza che possiamo subire in quanto donne, in quanto lesbiche, e pensiamo che la manifestazione del 24 di donne per donne sia una forma primaria molto importante di autodifesa, quindi ritrovarsi fra donne in piazza per le strade di Roma non sarà un chiedere qualcosa alle istituzioni patriarcali, ma sarà riprenderci le nostre forze fra compagne, fra donne, fra lesbiche di Roma e di tutta Italia. Questo concetto dell'autodifesa ci sta molto a cuore anche a noi, nel senso che poi appunto non è un caso che abbiamo pensato di incentrare questo ciclo di trasmissioni proprio su questo concetto, e pensiamo anche che è prima di tutto che la politica delle donne e la politica delle lesbiche sia uno degli strumenti di autodifesa di cui ci possiamo dotare. E io a questo punto vi proporrei uno stacco musicale e vi proporrei fra l'altro di ascoltare insieme un brano della cantante degli Agricantus che si chiama Rosie Widerker. Allora, continuiamo questo viaggio attraverso i collettivi femministi e lesbici di Roma che stanno preparando tutti insieme la manifestazione, il corteo del 24 novembre 2007. Alle ore 14 partirà da Piazza della Repubblica. Però, insomma, in questi mesi, in questo periodo è stato un pullulare, insomma, di iniziative organizzate dai vari collettivi femministi e lesbici proprio per pubblicizzare quanto più possibile il corteo, per lanciare dei contenuti forti di presa di consapevolezza appunto su che cosa significa il problema della violenza contro le donne e su come i media l'abbiano molto spesso strumentalizzato al loro uso e consumo, insomma, come diceva Claudia delle Mele di Eva, distorcendo la realtà. Io penso che sia importante forse ricordare che con all'apertura del corteo ci saranno anche le donne rom, proprio per proprio togliere dalla piazza qualsiasi, diciamo, polvere o dubbio o ambiguità sulla questione appunto della sicurezza e sul fatto che sono venute a partecipare anche loro all'assemblea nazionale che abbiamo fatto alla Casa Internazionale la settimana scorsa, proprio in preparazione del 24, portandoci proprio il loro vissuto, la loro esperienza, quanta violenza subiscono quotidianamente come donne e poi come appunto donne immigrate, e quindi il carico che ci hanno su ulteriore. Abbiamo deciso di dare comunque un segnale forte, per cui verranno in apertura con noi perché ci hanno detto di voler venire in piazza e noi appunto abbiamo detto certo che venite in piazza e vengono in piazza con noi a manifestare contro la violenza degli uomini, che appunto non è una questione di passaporto. E su questo ricorderei il fatto che dopo appunto quello che è successo con siamo state in Campidoglio a fare un'azione con uno striscione che appunto diceva che la violenza contro le donne non dipende dal passaporto, ma la fanno gli uomini, perché abbiamo anche mandato in giro un comunicato stampa, perché proprio per stoppare tutta quella dinamica, che poi è associata in una cosa molto politica e politicista, che è stato il pacchetto sicurezza, per cui secondo me cercavano proprio un capro espiatorio, e anche a dar fastidio particolarmente la strumentalizzazione che c'è sulla violenza contro le donne, che non solo, cioè nel senso, già c'è la violenza contro le donne, poi c'è qualcuno che ne fa un'altra, cioè lo usa strumentalmente per i propri fini, per le proprie necessità politiche, e quindi abbiamo cercato di dare uno stop. Tra l'altro quello striscione ce lo porteremo in piazza, lo attaccheremo al camion di apertura. Ricordiamo la gravità di alcune cose che sono successe proprio dopo, appunto, l'omicidio di Giovanna Reggiani, che il giorno dopo c'è stato un accoltellamento di tre rumeni da parte di alcuni incappucciati, insomma, che li hanno aspettati davanti al discount a Torre Angela. Oppure il giorno dopo è stato messo fuoco ad un negozio di rumeni a Monterotondo. Sono stati sgombrati i campi Rom, insomma è stato si è accesa questa miccia xenofoba e razzista che ogni volta, insomma, che si apriva un sito internet o un giornale c'era da mettersi le mani tra i capelli, insomma, per la gravità e per come passano queste cose sul corpo delle donne. Poi naturalmente di Giovanna Reggiani non se ne è parlato più, se non in funzione, ma neanche della donna rumena massacrata con la testa questa settimana, cioè. Certo, una donna ogni due giorni muore per mano del partner, ex partner, marito e compagnia bella. Quindi, gli amici, insomma, vediamo quello che sono, visto l'ultimo ennesimo caso di cronaca di Meredith, la ragazza che stava sull'Erasmus. Tra l'altro c'è la manifestazione che era pure partita, diciamo, prima che succedesse tutto questo. Tenga conto del fatto che questa situazione, cioè con quel caso, è diventata, diciamo, proprio lampante, veramente una roba da Vespri siciliani. Però, cioè, già se ci ricordiamo la questione dei lavavetri era stata agitata come una questione di sicurezza delle donne, perché le donne povere, soggette deboli, che non possono nemmeno chiudere un finestrino senza che qualcuno, qualche poliziotto le debba difendere, era servita come clava per appunto cominciare a normare i corpi di altri e di altre, perché poi le espulsioni riguardano anche molto, diciamo, con plateale contraddizione, riguardano anche donne ovviamente. Io volevo ricordare una cosa, cioè sempre per quanto riguarda il presidio al Campidoglio, che a me mi ha molto colpito il fatto che è stato organizzato tutto in due ore, no? E questo è stato possibile perché appunto i vari collettivi femministi e lesbici e i vari gruppi di donne che stavano preparando la manifestazione del 24 comunque già stavano in rete tra di loro, e quindi è stato possibile in maniera del tutto spontanea e veloce mettersi, insomma, comunicarsi la propria indignazione velocemente, e quindi mettere su un presidio che ha avuto per me molto, molto impatto, insomma, almeno io me lo sono vissuta così. Io volevo ricordare che anche questo discorso della xenofobia, sempre su un episodio, su un corpo di donna, già era partito, cioè, diciamo, in tempi recenti. L'episodio che mi ricordo è anche quello della ragazza, quella che fu uccisa, no? con l'ombrello, ricordate, sotto la metro, no? Cioè, dopo quel fatto ci furono manifestazioni, insomma, nel quartiere della ragazza, che appunto chiedevano l'espulsione, perché i rumeni, perché gli immigrati, eccetera. E questa cosa qui, ovviamente, questo, il problema è che ci sono, adesso c'è la destra, diciamo, la destra estrema e la destra anche quella istituzionale, che ovviamente cavalcano, no, questo, come dire, questa politica del difendiamo le nostre donne, perché comunque nuovamente per questi signori i corpi delle donne sono comunque un elemento dell'identità della nazione, quindi salvaguardare le donne italiane significa salvaguardare un concetto di nazione che è escludente, ovviamente rispetto agli altri soggetti. La cosa, diciamo, triste che a me mi farà brividire è che però in questa sensazione di precarietà che attraversa tutti, questo tipo di politica fa breccia, no? Perché poi la tutela sono le donne stesse, cioè le donne, diciamo, magari non le mie età, insomma, le donne che non fanno magari politica, che, insomma, non si interrompono, che però ti dicono, cioè, io ho paura, voglio essere protetta, io se ho una serie di persone vicino che agitano la questione della protezione contro le donne, sulle donne, per me, a me è una cosa che mi sta bene, insomma, e rischiamo quindi che questa deriva di destra, insomma, abbia anche il beneplacito comunque delle donne simili a noi. No, io volevo appunto ribadire questo concetto qua, che appunto come viene vissuta, come viene considerata la donna italiana, perché poi chiaramente questi eventi di cronaca quando succedono alle donne italiane fanno scalpore, invece quando sono delle donne straniere essere stuprate, essere uccise, è cronaca e basta, e passa sotto le righe. Infatti mi sembra che nessuno abbia messo invece dal punto di vista dei media in evidenza il fatto che sia stata una donna a denunciare, no, il rom che ha ucciso la Giovanna Reggiani, cioè questo elemento della solidarietà comunque di sesso e in generale ovviamente della solidarietà, cioè del rifiuto dell'omicidio come strumento, insomma, cioè è una cosa che è stata anche poco messa in evidenza, no, in questa campagna comunque contro i rom nessuno ha evidenziato che poi è dai campi rom stessi che è nata la possibilità di individuare un responsabile. Quindi questo ce la dice lunga sul tipo poi di strumentalizzazione che è stata fatta di questa vicenda qui. Abbiamo in collegamento telefonico una compagna delle ribellule, visto appunto io darei la parola anche a loro che hanno partecipato a questo percorso e parteciperanno alla manifestazione del 24 e già hanno fatto delle iniziative. Ciao Simona. Ciao, sì, allora inizio invitando comunque tutte quante alla manifestazione del 24. Sì, noi siamo un collettivo femminista, da 2 anni ci riuniamo a Scienze Politiche di Roma 3, siamo nate là, diciamo. E per quanto riguarda il 24 noi abbiamo fatto un percorso, abbiamo scritto un libretto che parla di violenza, di autodifesa e con un questionario all'interno. Siamo andate nei centri commerciali di zona e a fare una video inchiesta e parlare con le ragazze, diciamo la fascia d'età era dai 14 ai 20 anni. È stata un'esperienza molto interessante perché comunque se i mass media bombardano con un determinato ideologia, cioè con un messaggio che è quello unico in cui il romeno de turno è l'assassino, che lo stupro c'è fuori dalle case, per strada, quando poi, cioè, si sa che la realtà non è così, anche i dati lo dicono che la maggior parte delle morti e delle violenze avvengono all'interno delle mura domestiche. E comunque, cioè, diciamo, il nostro lavoro è stato quello di parlare con le ragazze, vedere qual era il loro grado, diciamo, di conoscenza di quello che era il fenomeno e quanto ne sapevano e come, diciamo, si sentivano rispetto al fenomeno della violenza e rispetto al senso di colpa, ad esempio una domanda che abbiamo fatto, se il vestirsi in maniera poco pudica, tra virgolette, poteva essere una delle cause della violenza, e loro dicono sì, beh, se la donna si veste in determinata maniera, magari se la cerca, e poi insomma tante risposte molto un po' pesanti, diciamo, anche per noi che facciamo un tipo di lavoro, comunque tutte le ragazze ti dicono sì, Romeno è un assassino, è quello che ti violenta, bisogna stare lontani da questi tipi rossi, quindi a livello informativo ti fa capire quello che pensa la gente comune, che secondo me è la cosa, secondo noi, secondo il nostro collettivo, è la cosa più importante, perché poi ti aiuta per dare delle risposte sia proprio all'interno del collettivo ma anche all'interno della società. E insomma, per sensibilizzare comunque le menti è sempre buono sapere con chi stai parlando, chi è il tuo interlocutore. Va bene, ti ringraziamo. Sì. Ci dispiace che non siete venute, che non siete potute venire di persona. Abbiamo fatto lo striscione e poi siamo un po', diciamo, di corsa, diciamo, per il 24. Noi, certo. È un po' questa. E niente, ci vediamo sabato. Ci vediamo sabato. Va bene, ciao. Va bene, ciao. Grazie di collegarmi a quello che diceva Simona, ovviamente proprio perché cioè una delle cose più importanti in preparazione di questo corteo era proprio quella di riuscire a comunicare con più donne possibile, e proprio perché sappiamo che la violenza sulle donne è una cosa che ci riguarda tutte e che la vediamo tutte in forme e gradazioni diverse, e quindi la cosa più importante, scusate il microfono fa rumore, più vicino, la cosa che ci sembra più importante è quella proprio di avere